America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Una strage in America, un'altra strage in America, questa volta a Washington, nel cuore del paese, nel cuore della capitale, poco lontano dal Parlamento, Washington, Washington DC, è piccola, lo sappiamo, District of Columbia, è soltanto una città. Ebbene, all'interno di questa città un uomo di 34 anni che si chiama Aaron Alexis ha sparato il fuoco nel Navy Yard, è un cantiere di riparazioni navali sulla Anacostia River nella parte meridionale a East di Washington, ha sparato e ha ucciso 13 persone. We're continuing to engage in that investigation. And we'll have better information on that later in the afternoon. Il primo a dare alcuni dettagli è stato il sindaco di Washington, Vincent Gray. La città è rimasta paralizzata, ma non per molto. L'aeroporto, il National, è stato chiuso soltanto per un quarto d'ora. Ci si è accorti che non si trattava di un attacco terroristico, ma dell'atto di uno squilibrato, probabilmente, di questo giovane, vi dicevo, di 34 anni, alto 1,82 m, 95 kg, che ha lavorato nelle forze armate americane. Nel 2007 si è arruolato, si è specializzato diventando elettricista per l'aviazione, è stato poi assegnato a Fort Worth, una delle più importanti basi americane in Texas, era assegnato alle logistiche di flotta, era nello squadrone 46, insomma un uomo che ha lavorato all'interno delle forze armate americane, un afroamericano che era riuscito a fare comunque carriera specializzandosi, che improvvisamente si scatena e scatena soprattutto una strage che ha colpito di nuovo l'America, l'America che si sente travolta da questi attacchi terroristici, sia che siano motivati dall'esterno, sia che siano i gesti di folli così armati che all'improvviso, magari per una ripicca personale, vanno, sparano e uccidono decine di persone. In questo caso, devo dire, c'è un'ironia tristissima, perché pensate che questo signor Aaron Alexis era stato decorato ben due volte, la prima volta con la medaglia per il servizio per la difesa, il Defense Service Medal, e la seconda volta, e questo direi ci deve davvero far riflettere, perché la contraddizione ci porta ai limiti dell'assurdo, pensate, ha avuto la medaglia per la guerra globale contro il terrorismo. Ecco, il giorno dopo una strage di questo genere ci si deve chiedere molte cose, insomma, com'è possibile che un uomo decorato per la guerra contro il terrorismo diventa lui stesso terrorista? La spiegazione ancora non la sappiamo. Pensate che fino a ieri pomeriggio, fino a tarda sera, l'FBI brancolava nel buio, hanno cercato di capire, di ricostruire quali potessero essere le motivazioni. Qualcuno dice che era stato trasferito da un posto all'altro, altri che fosse insoddisfatto perché a un certo punto aveva smesso di lavorare nelle forze armate, era di Queens, ma non era andato da tempo né dalla madre né dalla sorella. Si brancola un pochettino nel buio, si sa soltanto che l'America torna improvvisamente, proprio quando si confrontava con questa sfida per l'antiterrorismo. Barack Obama aveva detto: attenzione, perché la minaccia del terrorismo è sempre presente, dobbiamo colpire la Siria perché un domani qualche terrorista potrebbe prendere delle armi chimiche. Nel momento in cui Al-Qaeda proprio ieri aveva lanciato un messaggio contro l'America, ecco, ci si rende conto che il pericolo è in agguato dietro l'angolo. In questo caso non è originato dal terrorismo, è un pericolo interno, è una piaga che affligge l'America, da cui insomma difficilmente si riuscirà a capire, e soprattutto si riuscirà a trovare una soluzione, perché potrebbe capitare come è capitato a Newtown, quando un giovane ha ucciso prima la madre e poi una quantità di bambini della scuola elementare. We still don't know all the facts. But we do know that several people have been shot and some have been killed. So we are confronting yet another mass shooting. And today it happened on a military installation in our nation's capital. It's a shooting that targeted our military and civilian personnel. These are men and women who were going to work, doing their job, protecting all of us. Barack Obama ha parlato mentre in realtà doveva parlare di economia, perché siamo al quinto anniversario, ve ne ho parlato anche ieri, siamo al quinto anniversario della crisi economica. Abbiamo oggi le riunioni della Federal Reserve che cominciano, ci si preoccupa della crescita, di creare posti di lavoro. Il presidente ha promesso di creare altri 7,5 milioni di posti di lavoro durante il suo mandato. Proprio ieri mattina ha avuto la soddisfazione di ascoltare dalle Nazioni Unite, da Ban Ki-moon in persona, che i responsabili veri dell'attacco chimico in Siria, anche se non l'ha detto direttamente, Ban Ki-moon ha dato i fatti per poter capire, per poter confermare che l'origine di questo massacro, di quest'altro massacro, dove sono morte 1440 persone, appartiene esclusivamente al governo siriano. Perché? Perché Ban Ki-moon ha detto che è stato usato il gas sarin, che è il gas in possesso del governo. Sono stati usati 350 litri di questo gas, sono stati usati dei missili di nuovo in possesso del governo, è stata ricostruita la traiettoria di questi missili. Ecco, quello che mi ha colpito ieri è che mentre si dibatteva dei massimi sistemi, della risoluzione che si sta preparando da portare alle Nazioni Unite, in cui non solo si condannerà la Siria, ma si chiederanno delle sanzioni, si cercherà di codificare questo disarmo dell'arsenale chimico secondo gli accordi raggiunti tra Russia e Stati Uniti, ecco, in quei momenti ci siamo confrontati in tutto il mondo, in America, lo stesso presidente, con una tragedia. In questa base lavoravano 3.000 persone, ci sono degli episodi strazianti. Tim Girus, per esempio, uno dei comandanti, a un certo punto stava cercando di organizzare una fuga delle persone, perché la sparatoria avveniva nei corridoi dentro uno dei palazzi, era al quarto piano. Una persona gli si avvicina e gli dice: ma cosa sta succedendo? Nel momento in cui gli risponde, due colpi e questa persona con cui parlava viene uccisa e muore davanti ai suoi occhi. È stata una tragedia, ha detto Obama, un'altra sparatoria di massa, questa volta avvenuta all'interno di un'area militare. Continuiamo a investigare sull'accaduto senza alcuna interruzione. Una soluzione che si continua a proporre è quella di imporre dei controlli sugli armamenti. L'assassino aveva una AR-15, un fucile d'assalto, una pistola semiautomatica, un arsenale che era quasi impossibile tenere addosso camminando. Quindi qualcuno dice che forse ha rubato delle armi a delle forze dell'ordine, due poliziotti sono stati uccisi. L'America di nuovo questa mattina si è svegliata avvolta dalla tristezza per questa strage e ha preso una gran quantità di altri dettagli che ancora non si sapevano e che rendono ancora più amaro, vi ripeto, ad esempio la storia che l'assassino fosse decorato al merito, quello che è successo ieri nella capitale americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, è difficile scegliere una canzone dopo una giornata come quella che vi ho descritto, questa giornata che continua a portare turbolenze all'America su ogni fronte. Dunque l'unica che mi viene in mente è Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, un ponte su acque turbolente. Che tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.